Letture di Radio 24. In Italia la salute è un diritto solo per chi paga. È quanto emerge analizzando i dati diffusi nei giorni scorsi dal Censis. Cresce infatti il numero degli italiani che rinunciano o rinviano una prestazione sanitaria, 11 milioni lo scorso anno, perché i tempi di attesa sono troppo lunghi. Quelli che se lo possono permettere le pagano di tasca propria. Nonostante il calo dei redditi complessivi delle famiglie, la spesa sanitaria privata è infatti in continua crescita. Gli altri devono scegliere se accettare attese infinite o rinunciare. Per una donna operata di tumore al seno, 18 mesi di attesa per una mammografia sono troppi, scrive Roberto Rotunno in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Eppure, presso le strutture pubbliche, casi di questo tipo sono talmente tanti che sembrano essere diventati la regola. L'ultimo venuto fuori è quello di Simonetta di Viareggio, che ha subito l'intervento nel 2011 e da allora si è sottoposta ai controlli annuali. Dopo l'esame del 2015, le è stato detto che il successivo sarà effettuato a gennaio 2017. «Sono disperata», ha detto la donna. «Ho bisogno di anticipare almeno di qualche mese. Con questo sistema ti costringono a rivolgerti a un privato, ma non tutti ne hanno la possibilità. Ho un marito e un bimbo, e io non lavoro. È già tutto così difficile». Il meccanismo è quello che in molti conoscono. Prenotare una prestazione medica presso una struttura pubblica richiede tempi di attesa particolarmente lunghi. Per accelerare, bisogna rivolgersi a un privato, ma non tutti possono permetterselo. Chiunque abbia avuto a che fare con situazioni di questo tipo paragona infatti quanto contenuto nel rapporto Censis alla scoperta dell'acqua calda. E questo sistema, come emerge dalle segnalazioni, non risparmia neanche i malati oncologici. A febbraio, per esempio, una paziente ha chiesto un attacco all'azienda sanitaria locale di Lecce, che le ha fissato l'esame a ottobre 2017. Sul caso è intervenuta anche la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, avviando una task force. Quando chi chiede una prestazione diagnostica è affetto da malattia oncologica, ha detto, tale richiesta assume caratteristiche di urgenza e i tempi di attesa devono essere brevissimi. L'associazione Cittadinanza Attiva, che fornisce consulenza sanitaria gratuita ai cittadini presso le sedi del Tribunale dei Diritti del Malato, riceve quotidianamente decine di segnalazioni. Delle 26.000 contenute nel rapporto PIT 2015, quasi il 60% proviene da chi ha avuto problemi con le liste d'attesa, tra esami diagnostici, interventi chirurgici e visite specialistiche. La signora Giulia, nome di fantasia, racconta di come, dopo aver subito a luglio un'operazione all'ospedale di Roma Tor Vergata, non sia ancora riuscita a farsi rimuovere un filtro cavale. «Nessun reparto mi prende in carico per mettermi almeno in lista», spiega. L'oncologia dice che non è sua competenza, l'ematologia dice che non ha posti letto e tantomeno i radiologi interventisti, che poi dovrebbero essere quelli preposti alla rimozione. Mi hanno detto di fare un reclamo. C'è poi chi ha un problema lieve ma aggravato dalla lunga attesa. Dal mese di novembre del 2013 sono in attesa di un intervento chirurgico in day surgery presso il reparto di proctologia dell'ospedale San Camillo di Roma, denuncia il signor Paolo, altro nome di fantasia. Ho un problema lieve, ma che sta diventando invalidante. Per rivolgermi a un privato avrei bisogno di migliaia di euro. Non posso permettermelo. A volte i disagi riguardano anche le strutture accreditate. A gennaio, a seguito del cambio di proprietà dell'ospedale San Pio X, la signora Maria è stata rimossa dalla lista d'attesa di un'operazione per la quale aveva già iniziato la dieta pre-intervento. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Roberto Rotunno «Devo operarmi, sono in lista dal 2013», dal Fatto Quotidiano del 9 giugno. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. L'orribile pranzo di lavoro è niente in confronto alla velenosa dittatoriale apericena. Non si sa se sia maschio o femmina la nefanda creatura, ma la sua mostruosità va oltre l'incrocio genetico e affonda nell'incertezza, chiamata frivolamente liquidità, dell'attuale epoca scema, la cui cifra principale è aggiungere tutto a tutto senza vedersi che si sta sommando il niente al niente. Nel pranzo di lavoro, ossimoro del terziario avanzato, si lavora e si mangia. Per chi va di fretta, sa ottimizzare. Così la pericena, vuoto rituale, trovata del marketing per farci consumare occultando la spaventosa verità. Troppo snob per un aperitivo, che richiama riti ministeriali e impiegatizi, siamo troppo poco nobili e intimi per cenare insieme. Tra insipidi rustici e palle raggrumate di couscous vogliamo entrambe le cose, l'anticipo stuzzicante e la lussureggiante cena, e finiamo per non avere nessuna delle due. La conversazione, tramortita nel pranzo di lavoro, è trucidata dalla musica che sovrasta ogni suono umano. Per distrarre dalla qualità del cibo, come nelle catene di abbigliamento, disturba l'acquirente dal valutare l'obbrobrio che sta per comprare. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Daniela Ranieri, Pranzi di lavoro e apericene, quando il convivio è uno strazio, dal Fatto Quotidiano del 6 giugno. Capita a volte nel mondo del calcio che le favole, quelle che vedono le piccole squadre di provincia superare in classifica le squadre più blasonate, abbiano vita breve. Era successo al Vicenza di Paolo Rossi, che assieme alla Serie A aveva perso anche il suo grande campione, e succede oggi all'Leicester di Ranieri, che dopo l'incredibile primo posto in classifica si è subito affrettato a batter cassa vendendo i suoi due più grandi campioni. Nel suo editoriale sulla Stampa, Massimo Gramellini pensa soprattutto alla delusione dei bambini della cittadina inglese. Consapevole che esistono problemi più seri, in queste ore penso spesso ai bambini di Leicester a cui la vita ha ammazzato il primo sogno. A quell'età le favole si ascoltano. Loro ne hanno già vissuta una, incubo compreso. Avevano appena finito di appendere alle pareti i poster di Vardy e Mahrez, i cavalieri che fecero l'impresa di conquistare la vittoria più improbabile del mondo. Se non che i cavalieri si sono rivelati dei comuni mercenari e hanno tradito i bambini che avevano creduto in loro per andare a divertire quelli di squadre più titolate, i quali, abituati al benessere, li ameranno molto meno. Mi rifiuto di comprendere le ragioni per cui un calciatore che si trova scaraventato dentro un'epopea decida di sottrarsene brutalmente per un pugno di sterline. Quanto potrà mai dare l'Arsenal al funambolico algerino Mahrez e al bomber Vardy, uno che ancora ieri giocava con il braccialetto elettronico dei prigionieri in libertà vigilata e adesso si trova eternato all'Leicester nel nome di una strada? Ammettiamo pure il doppio. Significa che invece di 3 ville con piscina potranno comprarsene 6. Ma che cosa se ne fa un essere umano di 6 ville? Quando nemmeno un castello potrebbe regalargli l'emozione di entrare in campo con la maglia del Leicester nella prima partita di Champions, specchiandosi nello sguardo rapito dei suoi piccoli tifosi. Giocare quella partita con la maglia dell'Arsenal non sarà mai la stessa cosa. Se avessi accanto uno dei bambini che adesso piangono e li rimpiangono, gli direi quello che tanti anni fa qualcuno disse a me: non chiedere perdono ai tuoi sogni, ma d'ora in avanti non delegarli più. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Che è Mahrez, dalla Stampa dell'8 giugno. Hello. Lo scorso anno i ricavi da supporti digitali hanno superato per la prima volta quelli derivati da supporti fisici. Una crescita sostenuta soprattutto dallo streaming, dove la scena è dominata da Spotify, con 30 milioni di utenti premium e una libreria di oltre 15 milioni di titoli. Ma il sistema, composto dal colosso svedese, inizia a mostrare le prime crepe, scrive Nicola Grolla sull'inchiesta, e alcuni artisti hanno iniziato a ribellarsi. È un cambiamento che ha influito anche sul modo di consumare musica, scrive Grolla. Niente più album da 12 tracce. Questa è l'era delle playlist, elenchi di titoli, singoli che si susseguono riprodotti casualmente o secondo un ordine che si basa sulle preferenze dell'utente. Ma se la creazione di queste quasi sterminate librerie musicali a portata di click ha reso la musica più accessibile e soprattutto fruibile legalmente, ha costretto etichette e artisti a confrontarsi con un cambio di paradigma. Chi non ci sta, come Taylor Swift per l'album 1989 e Adele con l'album 25, limita la diffusione del proprio prodotto alle piattaforme che pagano meglio o evitano addirittura il canale online. Il motivo, dicono gli artisti affermati, è la battaglia a favore dei piccoli artisti che riceverebbero solo una parte esigua dei ricavi generati dalla musica su internet. Quella che era la battaglia contro la pirateria si è trasformata in quella per la distribuzione. Una lezione in questo senso è arrivata con l'ultimo album di Beyoncé, Lemonade. Pubblicato in esclusiva su Tidal, il sito del marito e rapper Jay-Z, ha riscosso un successo tale che vale doppio per la cantante statunitense, che detiene il 33% della piattaforma. Segnali forti che fanno intendere quanto forte sia diventato il peso delle superstar nel mercato della musica, che ora possono decidere dove e come pubblicare la propria musica. Emerge quindi la questione della sostenibilità dello streaming on demand a fronte della frammentazione del mercato. Accedere a Spotify, Tidal, Deezer o Apple Music non significa, di default, possedere l'intera collezione musicale del mondo. Nonostante l'abbondanza di titoli, il mercato fa sempre il suo corso. Spotify, ad esempio, nel 2015 valeva 1,95 miliardi di euro, a fronte di una perdita netta di 173 milioni di euro, in aumento il prossimo anno. Il motivo? I costi necessari per sostenere l'attività di marketing e pompare il marketing. Insieme incidono per tre quarti dei guadagni complessivi, circa 321 milioni di euro. Più in generale, poi, secondo l'ultimo rapporto dell'IFPI, la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, a fronte di un mercato musicale a pagamento che tocca quota 2 miliardi di dollari, le entrate pubblicitarie pesano solo per 634 milioni di dollari. Pochi, se si pensa agli oltre 900 milioni di utenti che ogni anno guardano o ascoltano gratuitamente, quindi sorbendosi la pubblicità, la musica sulle piattaforme di streaming. La sfida dello streaming è aperta e la musica, per il momento, ringrazia. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Nicola Grolla, Streaming Online, il futuro dell'industria musicale fra playlist e artisti in rivolta, pubblicato il 9 giugno sul sito L'Inchiesta.